volte facciamo l'amore, a volte ci spezziamo il cuore, a volte restiamo in silenzio, a volte parliamo per ore, a volte vogliamo nel buio, a volte apprezziamo la luce, a volte ci stringiamo le mani, a volte pensiamo al nostro domani, sì. Sì. Quante volte ridiamo nel vento, a volte per ore, a volte un momento, nel cielo di mille colori, cerchiamo l'amore là fuori. Quante volte corriamo su un filo, a volte per prenderci in giro, ti cerco nei pensieri miei, ma poi non sei mai come ti vorrei, sì. A volte il tempo è tiranno, a volte noi siamo in affanno, a volte teniamo segreti, a volte diventiamo concreti, a volte la voglia ci prende, a volte il sonno ci arrende, a volte vince la fantasia, a volte vogliamo davvero andar via e no. E no. Ma restiamo per sempre dei bambini. Sì. A volte sono di buon umore, a volte mi prende il dolore, talvolta un po' d'ansia mi assale, a volte il mio cuore fa male. A volte passeggio in un prato, con passo veloce quasi esagerato, e a volte sonnecchio in giardino, sognando la neve e uno slittino, perché no? Perché no? Talvolta ripenso al passato, più quelle che ho preso che quelle che ho dato. La vita ti mette alla prova, cammini anche tu sulle uova. Bisogna farsi guidare dal sogno, non cedere ai nostri bisogni, sperare in un domani migliore. Siamo fragili come petali di un fiore, sì. E sì. Per sempre dei bambini. E sì. A volte facciamo l'amore, a volte ci spezziamo il cuore, a volte restiamo in silenzio, a volte parliamo per ore.